Euroreportage. Orizzonte rifiuti. Lo scarto diventa una risorsa. Di Laura Bettini. I rifiuti sono una risorsa? Sì, l'Europa ce lo ripete da tempo, ma l'Italia stenta ancora a capirlo, nonostante le cicliche crisi, le multe e la scarsità di risorse del nostro territorio. Invece i rifiuti ben gestiti possono fornire anche materia prima seconda alle industrie produttive, possono dare impulso alla crescita e alla nascita di nuove imprese nel settore rifiuti, generando così nuovi posti di lavoro. E questo solo per dirne qualcuna. Ma per avere successo bisogna saper pensare, perlomeno nella lingua di Bruxelles. Bisogna saper fare squadre e sfruttare le opportunità. Per questo IRI Sistema, associazione specializzata nello studio interdisciplinare del ciclo dei rifiuti, ha recentemente organizzato a Roma un convegno intitolato Rifiuti e sviluppo economico ecologico, per ragionare su come lanciare l'Italia e le sue nascoste capacità in questo settore grazie all'Unione Europea, nonostante le ben note difficoltà nazionali nella gestione dei rifiuti. Antonio Cavaliere, presidente di IRI Sistema. Due problemi grossi che noi abbiamo nella gestione dei rifiuti sono: una, la segmentazione della gestione di questi rifiuti, e come il sistema non riesce a fare sistema, cioè nel senso che c'è la necessità da una parte di creare gestori intersettoriali, interdisciplinari, e dall'altra parte però di non segmentare in una maniera, diciamo, che organizzativamente non efficiente. Poi lei è stato presidente dell'Osservatorio Rifiuti e questo sicuramente l'ha ben chiaro, ecco. Esattamente, cioè questo è il problema, è proprio questo, che l'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti all'epoca operativo su molti fronti e nasceva proprio e si è evoluto proprio nell'esperienza multiministeriale da una parte e multisettoriale, multidisciplinare, come si diceva prima, quando invece non esiste un ente che permette di portare avanti una cosa multidisciplinare, generalmente si cade in una delle due logiche: o una cosa che fa assolutamente bene o male all'ambiente, o è una cosa in cui ci sono o non ci sono soldi per fare una certa cosa. Riconosce gli errori del passato, ma guarda speranzoso al futuro Fabrizio Clementi, responsabile attività produttive dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Clementi ha da poco preso sotto la sua giurisdizione anche il settore rifiuti. Un bel cambio di mentalità per l'ANCI. È successo che anche con la nuova presidenza dell'ANCI del sindaco di Torino, Piero Fassino, ovviamente è sceso in campo anche, Torino non a caso, insomma, una visione anche economica del modo di essere dei comuni. Noi tradizionalmente, dalla nascita dell'Associazione dei Comuni Italiani, abbiamo lavorato sempre tra le coordinate istituzionali, ordinamentali e quelle finanziarie e fiscali. Ovviamente la crisi economica, la crisi fiscale che colpisce i comuni in prima linea obbliga quest'ultimi a cominciare a ragionare, purtroppo un po' in ritardo, diciamo, sui tempi, in termini di analisi economica del proprio ruolo, cioè il comune, per dirla in una maniera un po' brutale, anche attore dell'economia locale. Il concetto di attore dell'economia locale, appunto questa mia responsabilità sull'area attività produttive, servizi pubblici locali e quindi rifiuti, sta proprio a significare il tentativo di avviare un percorso di carattere economico, quindi in aggiunta ai due pilastri istituzionali e fiscali. Qui bisogna essere molto sinceri, autocritici, anche con molta amarezza. Purtroppo la cultura della progettualità europea non si è ancora insediata, direi in generale nel nostro paese, sia nel pubblico che nel privato, perché la progettualità europea è una progettualità che in ultimo deve essere finalizzata al finanziamento del progetto stesso, ma in partenza bisogna sapere analizzare bene il bisogno, gli obiettivi da realizzare, la tempistica e le modalità di relazione con tutti gli attori da coinvolgere, pubblici e privati. E quindi, pur essendoci una forte differenza nei territori del paese tra nord, centro e mezzogiorno, purtroppo nella diciamo, visione della risorsa europea, ancora è forte la corsa al finanziamento europeo e non l'offerta di una progettualità che mette con chiarezza in evidenza l'obiettivo da realizzare e quindi gli attori più idonei per realizzare questi obiettivi in Italia come all'estero. E invece le nostre città sono miniere a cielo aperto e i nostri centri di ricerca sono molto qualificati e l'Europa lo riconosce, denuncia Roberto Morabito, responsabile della Unità Tecnica Tecnologie Ambientali di Enea. Su 3.000-4.000 tonnellate di schede elettroniche annue non riusciamo a raccoglierne più di 900.000 tonnellate e il resto va, secondo vari percorsi, viene esportato via negli altoforni tedeschi o del Belgio, viene esportato in Cina addirittura e quindi noi siamo un paese che in assenza di materie prime ci stiamo permettendo il lusso di esportare anche i nostri rifiuti intesi come miniera di materie prime seconde. Beh, questa parte diciamo della raccolta dovrebbe teoricamente migliorare con le ultime normative, l'entrata in vigore della direttiva europea sui RAE e così via. Chiaramente c'è un problema di mentalità e anche di attrezzarsi a fare certe cose altrove, ecco, questo senz'altro. La nostra principale necessità è proprio quello di valorizzare le risorse sul nostro territorio. Quello assolutamente. Su questo, per esempio, stiamo cercando di entrare anche molto pesantemente all'interno della strategia europea, con una valorizzazione proprio in Italia. Uno degli strumenti principi della strategia europea sulle materie prime e materie prime critiche è la cosiddetta KIC. KIC è un acronimo che sta per Knowledge Innovation Community, cioè la realizzazione sul territorio europeo delle comunità di conoscenza e innovazione. La Commissione europea ha lanciato questo bando per la realizzazione di una KIC e l'Italia è stata accettata all'interno di una cordata europea. Il bando scade il 30 settembre e l'assegnazione della KIC verrà fatta entro l'anno per poter partire nel 2015 e Enea sta coordinando proprio la cordata italiana di cui fanno parte università, altri enti di ricerca, imprese e stakeholder a supporto dal Ministero dello Sviluppo Economico ad altri soggetti. Qualora questa cordata vincesse, cioè venisse assegnata la KIC a questa cordata prevede appunto un nodo di eccellenza chiamato South, cioè Sud, che è un nodo formato da Italia e Spagna e anche con contatti con la Grecia, coordinato dall'Italia, in cui uno dei nodi di eccellenza sarebbe proprio il centro di ricerca dell'Enea della Casaccia. Ma se la cordata di Enea per le materie prime di approvvigionamento critico è già completa, altri possono ancora cogliere le opportunità del programma Horizon 2020, dove sui rifiuti c'è molto spazio per la ricerca e in generale per la collaborazione con altri paesi europei sui rifiuti. Anna D'Amato dirige l'Ufficio Relazioni Europee Internazionali del CNR. Insomma, ci sono vari settori in cui sicuramente se noi riusciamo a indirizzare diciamo i nostri delegati nazionali ad inserire delle tematiche nei work program dei prossimi anni che facciano riferimento sempre più anche a questo problema, riusciremo anche a portare dentro a questi progetti sempre più partecipazioni italiane e straniere. Naturalmente Horizon 2020 sono progetti in collaborazione, ma dato che è un problema comune che alcuni hanno già risolto, noi meno, mettere a sistema e andare magari ad apprendere le best practice portando le nostre competenze anche in progetti dove ci sono altri che sono più avanti di noi sotto certi aspetti potrebbe essere sicuramente positivo. Potrebbe avere anche ricadute positive nel nostro stesso paese, non solo nel partecipare. Un secondo strumento che vorrei mettere in evidenza è quello dei fondi strutturali, che adesso si chiamano, che devono essere posti in sinergia con Horizon 2020. È uscita recentemente questa comunicazione con delle indicazioni e proprio una normativa che è stata varata sulle sinergie fra i fondi strutturali, che prima erano abbastanza lasciati alla volontà dei singoli paesi, e le priorità che sono anche indicate in Horizon 2020 possono essere messe in sinergia, possono essere utilizzati quindi congiuntamente dei fondi per progetti in collaborazione e poi continuata un'applicazione dei risultati di queste ricerche a livello nazionale con ricadute a livello anche locale. Quindi questa mi sembra un'opportunità che sicuramente va sfruttata. E speriamo che venga sfruttata, finalmente al meglio. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.